Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stasera ospite Nicola, cantante dei Jar of Bones. Con voi e con lui ascolteremo alcuni brani del loro disco Red Stain, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato. Il titolo? Il titolo è Faith, ovvero Fede. Questa canzone l'abbiamo scritta in un periodo particolare, ovvero quando noi non sapevamo che strada prendere. Eravamo indecisi se rimanere sullo vecchio stile, un po' più anni 90, un po' più grunge come ci hanno detto, oppure cambiare veramente identità. E quindi abbiamo voluto mettere delle sonorità che richiamano, sì è vero, richiamano un po' gli anni 90 probabilmente, ma per smentire questo abbiamo buttato un testo impegnato, un testo che non parla né di depressione né di rivoluzione, è un testo che parla solamente di fede e dei vari aspetti della fede, e poi a voi sta l'interpretazione, insomma, del testo. La vostra esperienza in sala di incisione e quali le idee musicali per questo album? Ma una pedina fondamentale in sala di incisione è stata Riccardo Asquini del Saoio Studios, dove abbiamo registrato a Udine, che per questo progetto lui è stato parte integrante dei Jar of Bones, perché ci ha dato grandi suggerimenti, ha messo molto del suo, perché lui è comunque un grandissimo chitarrista ed ha delle grandissime idee, ed è stata una bellissima esperienza. Abbiamo collaborato tutti assieme e abbiamo anche imparato cose nuove da lui. La prossima canzone per chi ci ascolta? La prossima canzone sarà All My Friends Are Gone. All my friends are gone. All my friends are gone. All my friends are gone. In studio ancora con Nicola dei Gen of Bones, il vostro disco sta ricevendo molte recensioni, quali le più prestigiose e in sintesi cosa sottolineano di positivo? Beh, in assoluto dal punto di vista commerciale la più prestigiosa è quella di Rock Hard, ed è stato un onore per noi essere recensiti su una rivista nazionale ed aver ricevuto una buona recensione. Però devo essere onesto che la recensione che mi è piaciuta di più è stata di una ragazza, di una certa Clara Begni, di hardsound.it, e vi spiego anche il perché. Perché è stata l'unica recensione che fino ad ora non ha parlato né di chi assomigliamo, né di come suonano gli strumenti, né di come canto io, bensì ha ascoltato bene il CD ed è riuscita a interpretare le canzoni come noi volevamo che fossero interpretate. Quindi è stata la recensione che abbiamo apprezzato di più. C'è anche da dire che molti webzine sono stati a volte anche troppo buoni con noi, a volte anche un po' troppo critici, però fa parte del mestiere, no? Siamo contenti di questo. La cosa importante è che hanno detto che non sono stati stufati al primo ascolto. Questa è una cosa molto importante. Prossimo track. La prossima track è Last Sentence. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con Nicola dei Gen of Bones. Voi restate sempre su Radio RCS. Life like a cage, I feel sometimes strange.